ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. Il frutto proibito. Erano in molti a predire a Jan di Skrolica che avrebbe avuto di che rallegrarsi della sua bimbetta una volta diventata grande. Certo, la gente non capiva che già adesso Clara Gulla lo rendeva felice ogni giorno e ogni ora che Dio gli mandava. Ci fu soltanto una volta in tutta la sua infanzia che il padre provò dispiacere e vergogna per colpa sua. L'estate in cui la bambina compiva 11 anni, il 17 agosto, Jan si incamminò con lei attraverso la collina in direzione di Lövdala. Era il compleanno del proprietario, il tenente Lilie Krona. Il 17 agosto era un tale giorno di gioia che lo si attendeva con ansia per tutto l'anno, sia a Svarzo che a Bro, e non soltanto tra i signori che erano invitati a tutti i festeggiamenti, ma anche tra i bambini e i ragazzi del contado. Arrivarono a Mokka per vedere la gente splendidamente vestita e ascoltare canti e musiche da ballo. E poi c'era un'altra cosa che rendeva così allettante ai ragazzi il 17 agosto a Lövdala, ed era tutto il ben di Dio che a quell'epoca si trovava nel giardino. Erano educati alla più rigida onestà in tutti gli altri casi, ma come non cogliere frutti come quelli che pendevano lì a portata di mano da alberi e cespugli, purché si stesse attenti a non farsi acchiappare. Quando Jan entrò nel giardino con Clara Gulla, si accorse bene di come la bambina spalancava gli occhi alla vista di tutti quei bei meli, carichi di grossi frutti verdi, ancora acerbi. E Jan non le avrebbe certamente proibito di assaggiarne, se non avesse visto l'intendente Söderling e qualche altro inserviente della fattoria aggirarsi fra gli alberi, sorvegliando che non venissero danneggiati. Preferì dunque portare con sé Clara Gulla nel cortile, dove non c'erano tentazioni, ma dovette accorgersi che la bambina era rimasta col pensiero ai cespugli di uva spina e agli alberi di mele. Non guardava né i figli dei signori con i loro splendidi vestiti, né le magnifiche aiuole fiorite. Non riuscì neppure a farle ascoltare i bei discorsi rivolti al tenente Lilie Krona dal prevosto di Bro e dall'ingegner Börris di Borg, e neppure agli auguri in versi del sacrestano Svartling, non prestò niente al centro. Si sentivano venire dall'interno le note del clarinetto di Anders Öster. Suonava una musica da ballo così allegra che era difficile star fermi. Ma la bimbetta continuava a non far altro che cercare un pretesto per poter tornare nel giardino. Jan la tenne costantemente per mano tutto il tempo. Non lasciò mai la presa, nonostante tutti i suoi tentativi per liberarsi. E riuscì a trattenerla finché non cominciò a calare il buio della sera. Allora furono sistemati i lampioncini colorati. E non solo appesi agli alberi, ma anche posati a terra e tra i fiori e i folti rampicanti sui muri della casa. Era talmente bello che Jan, che mai in vita sua aveva visto una cosa simile, si sentiva girare la testa e non sapeva se era ancora sulla terra. Ma continuò a tener ben ferma la piccola mano, in ogni caso. Mentre i lampioncini venivano accesi, il negoziante che aveva la bottega vicino alla chiesa, suo fratello Ander Höster e sua nipote, intonarono un canto, e mentre cantavano, Jan sentì una strana gioia fluttuare nell'aria. Era una gioia che portava via ogni afflizione e ogni inquietudine. Si diffondeva così dolce e serena nella tiepida notte che Jan non poté non abbandonarvisi. Era così per tutti. Si sentivano talmente felici di esistere e di avere un mondo tanto bello in cui vivere. «Ora sì che ci si accorge che è il 17 agosto!» sussurravano intorno a lui. «Così ci si doveva sentire nel paradiso terrestre!» disse un giovanotto con un'espressione seria e solenne. Jan pensava come loro, ma riusciva ancora a conservare una sufficiente presenza di spirito da non lasciare la manina della bimba. Dopo il canto furono lanciati alcuni razzi, e quando i piccoli globi di fuoco salirono dritti nel cielo azzurro cupo della notte per ricadere in una pioggia di stelle rosse, azzurre e gialle, Jan si sentì così confuso e al tempo stesso esaltato che per un attimo dimenticò Clara Gulla. Quando si riprese, la bambina era sparita. «Non c'è più niente da fare», pensò Jan. «Non resta che sperare che le vada tutto bene, come sempre, e che l'intendente Söderling o qualche altro guardiano nel giardino non abbia da acchiapparla». Non gli sarebbe valso nulla cercare di rintracciarla nel grande giardino buio. La cosa più saggia da fare era restare al suo posto e aspettarla. L'attesa non fu lunga, si levò ancora un canto, e non appena fu finito, Jan vide arrivare l'intendente Söderlin con in braccio Clara Gulla. Il tenente Lille Kröna stava in compagnia di molti altri signori sul gradino più alto della ricamata. L'intendente Söderlin si fermò davanti a lui e depose a terra la bimba. Clara Gulla non pianse, né fece alcun tentativo di fuggire. Aveva riempito il grembiule di mele acerbe e non pensava ad altro che a tenerlo stretto a sé perché non cascasse nulla. «Questa piccina era sopra un melo», disse l'intendente Söderlin. «E il signor intendente ha detto che se avessi preso qualche ladro di mele avrebbe voluto parlargli di persona». Il tenente Lille Kröna guardò la bimbetta e le sottili rughe intorno agli occhi cominciarono a distendersi. Ma non si poteva indovinare se si sarebbe messo a ridere o a piangere un momento dopo. Aveva proprio pensato di dover dire due parole serie a chi rubava le sue mele, ma quando vide la ragazzina tenere stretto il suo grembiule con le sue manine, si sentì preso da una tale simpatia per lei. Soltanto non sapeva come sistemare la faccenda in modo che potesse tenersi le sue mele, perché se la lasciava andar via così, senza farle niente, sarebbe andata probabilmente a finire che tutto il giardino sarebbe stato saccheggiato. «E così sei salita sui meli, eh?» disse il tenente. «Eppure vai a scuola, e hai imparato la storia di Adamo ed Eva, e dunque dovresti sapere bene quanto è pericoloso rubare le mele». In quel momento Jan si fece avanti e si mise a fianco di Clara Gulla. Era proprio scontento di lei, gli aveva rovinato la sua gioia, ma doveva pure intervenire in suo aiuto. «Comunque, non fate nulla alla bimbetta, signor tenente», disse, «perché sono stato io a darle il permesso di arrampicarsi sull'albero a prendere le mele». L'aveva appena detto che Clara Gulla gli rivolse uno sguardo risentito e non riuscì più a star zitta. «No, non è vero», gridò, «ero io che volevo le mele». «Papà mi ha tenuto per la mano tutta la sera perché non potessi andare a prenderle». Ora il tenente era proprio soddisfatto. «Ecco, hai fatto una cosa giusta, bambina mia», disse. «Hai fatto una cosa giusta a non lasciare che tuo padre si prendesse la colpa». «Sì, lo sai anche tu che quando il Signore si adirò tanto con Adamo ed Eva, non era perché avevano rubato la mela, ma perché furono tanto vigliacchi da incolparsi a vicenda. Puoi andartene con le tue mele adesso, perché non hai avuto paura di dire la verità». Con ciò si volse a uno dei suoi figli. «Dai pure a Jan un bicchiere di punch», disse. «Brinderemo con lui perché la sua ragazzina ha risposto tutta sola meglio di quel che fece un tempo nostra madre Eva. Sarebbe stato un bene per tutti noi se Clara Gulla si fosse trovata al suo posto nel giardino del paradiso terrestre». Lars Gunnarsson. Fredda giornata d'inverno, Erik di Falla e Jan di Skrolika erano andati a tagliar legna nella grande foresta. Avevano segato un grosso tronco e, poiché l'albero stava per cadere, si erano fatti da parte per non trovarsi sotto i rami nel momento della caduta. «Attento, padrone», disse Jan. «Credo che venga dalla vostra parte». Erik avrebbe avuto giusto il tempo di balzar via mentre l'abete era ancora lì che oscillava e si inclinava. Ma aveva abbattuto così tanti alberi in vita sua che gli sembrava di saperla più lunga di Jan e restò lì fermo, fermo dov'era. Un istante dopo giaceva riverso al suolo sotto l'abete. Non emise un lamento quando cadde e i rami dell'albero lo ricoprirono così fitti da nasconderlo completamente. Jan stava lì a guardarsi tutto e non sapeva dove fosse andato a finire il padrone. Ad un tratto udì quella voce alla quale aveva ubbidito tutta la sua vita, ma era così debole da poter a malapena capire quel che si diceva. «Va a prendere il cavallo e chiama gente, Jan, che mi portino a casa. Non è meglio che vi aiuti a venire fuori prima?» chiese Jan. «Non vi fa troppo male là sotto?» «Fa come ti dico, Jan», replicò Erik di Falla. E Jan sapeva bene che il padrone era di quelli che per prima cosa vogliono essere obbediti, perciò non fece più obiezioni. Corse dunque a Falla più in fretta che poté, ma la fattoria era tutt'altro che vicina, e gli ci volle un bel po' di tempo per arrivarci. La prima persona che incontrò fu Lars Gunnarsson, il quale, avendo sposato la figlia maggiore di Erik di Falla, era l'erede designato della fattoria alla morte del vecchio padrone. Appena Lars Gunnarsson fu informato dell'accaduto, ordinò a Jan di andare dalla padrona a dirle come stavano le cose. Poi doveva correre ad avvertire il garzone. Intanto Lars stesso si sarebbe precipitato alla scuderia ad attaccare uno dei cavalli. «Non è poi così necessario parlare subito alle donne della disgrazia», disse Jan. «Si perde facilmente tempo quando si mettono a piangere e ad angosciarsi. Aveva una voce così fioca, Erik, là sotto. È meglio che ci spicciamo». Ma Lars Gunnarsson aveva sempre tenuto a farsi rispettare fin dal primo giorno in cui aveva messo piede alla fattoria. E anche lui, come suocero, difficilmente si rimangiava ai suoi ordini. «Vai subito dalla padrona», ripeté. «Non capisci che devono preparargli il letto in modo che sappiano dove metterlo quando torneremo con lui?» Jan dovette entrare dalla padrona di Falla e, per quanto si affrettasse, ci volle il suo tempo a raccontarle quel che era avvenuto e anche come. Quando uscì di nuovo nel cortile, Jan sentì Lars che tuonava e bestemmiava nella scuderia. Lars non aveva la mano con le bestie e i cavalli si mettevano a scalpitare al suo avvicinarsi. E infatti non era riuscito a tirarne fuori neanche uno dallo stallo, in tutto il tempo che Jan era rimasto a parlare con la vecchia padrona. D'altra parte se la sarebbe presa male se si cercava di aiutarlo. Jan lo sapeva benissimo e così preferì dedicarsi all'altro incarico e andò a cercare il garzone. Era ben strano che Lars non gli avesse chiesto di avvertire Borje, che stava a trebbiare sull'Aia, lì vicino, e lo mandasse invece a cercare il ragazzo che potava gli alberi giovani nel boschetto delle Tutelle. Una bella visitata da fattoria. Mentre si affannava in queste inutili faccende, la debole voce di Erik di Falla sotto i rami d'abete continuava a risuonargli nelle orecchie. Non era più così imperiosa ora, ma implorava e supplicava che si affrettasse. «Vengo, vengo», mormorava Jan in risposta, ma provava la stessa sensazione di quegli incubi in cui si fa di tutto per fuggire e non ci si muove dal proprio posto. Lars aveva finalmente attaccato il cavallo. Ma allora arrivarono le donne a dirgli di prendere paglia e coperte. E questo era giusto e ben fatto, ma comportò naturalmente una nuova perdita di tempo prima che fosse tutto pronto. Finalmente partirono dalla fattoria, Lars, Jan e il garzone, ma non erano arrivati più in là del margine del bosco che Lars fermò il cavallo. «Si perde proprio la testa davanti a simili notizie», disse. «Solo adesso mi viene in mente che c'era Borje, che stava lì, sull'Aia». «Già», disse Jan, «sarebbe stato un bene portarlo. È forte il doppio di ciascuno di noi». E così il garzone ebbe da Lars l'ordine di correre giù alla fattoria a prendere Borje, e ci fu di nuovo da aspettare. Jan sedeva sulla slitta senza poter far nulla, e gli sembrava che dentro di sé si spalancasse una grande, vuota voragine d'un freddo glaciale, buia e sinistra ad affondarvi lo sguardo. Ma in realtà non era una voragine. Era soltanto la certezza che sarebbero arrivati troppo tardi. Finalmente Borje e il ragazzo arrivarono di corsa col fiato in gola. Così poterono mettersi in moto e addentrarsi nel bosco. Ma non procedevano molto rapidamente. Lars aveva preso proprio il vecchio Brüninger con le sue gambe rigide per tirare la slitta. Doveva davvero aver perso la testa, come aveva detto. E presto fu di nuovo evidente che non era del tutto in sé. Sul più bello stava per prendere la strada sbagliata. «Ma no! Se andate da quella parte, saliamo su a Sternsnipa», disse Jan. «E noi dobbiamo andare al bosco sopra Löby». «Sì, lo so», rispose Lars. «Ma c'è una deviazione più su, ed è molto più facile da percorrere». «Quale deviazione dovrebbe esserci?» chiese Jan. «Io non l'ho mai vista». «Aspetta e vedrai». Voleva a tutti i costi proseguire su per la montagna, ma Jan ebbe l'appoggio di Borje, e infine Lars fu costretto a cedere. Comunque la discussione era durata un certo tempo, e Jan sentiva quella nera voragine propagarglisi per tutto il corpo. Le braccia e le mani gli parevano già talmente svuotate, intorpidite da non poterle più muovere. «Fa lo stesso», pensava. «Tanto arriviamo troppo tardi. Erik di Falla non avrà più bisogno del nostro aiuto quando saremo là». Il vecchio cavallo arrancava per la strada del bosco meglio che poteva, ma non aveva le forze per una simile spedizione. E inciampava continuamente, e nei tratti in salita gli uomini dovevano scendere e procedere a piedi. Quando poi fu il momento di aprirsi il varco nella fitta foresta senza strade, Brüningen fu quasi più di ostacolo che di vantaggio. Non di meno arrivarono alla fine. e trovarono Eric di Falla in abbastanza buone condizioni. Non era troppo schiacciato, né aveva fratture. Solo una coscia era rimasta squarciata da un ramo, e la ferita era seria. La mattina dopo, quando Jan andò al lavoro, seppe che Eric era a letto malato con febbre alta e soffriva molto. Aveva preso freddo in quella lunga attesa immobilizzato nel bosco. Gli venne la polmonite. E 15 giorni dopo lo sfortunato incidente, Eric era morto. Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it.